Ma ciò che più turbava era sentire come quel fulgore perduto fosse la fierezza morale e come la vita fisica e anche intellettuale del signor di Charlieu sopravvivesse dunque all'orgoglio aristocratico che per qualche tempo aveva fatto visibilmente tutt'uno con esse. Così, in quel momento, diretta certamente anche lei dal principe di Guermantes, passò in Victoria Madame de Saint-Hubert, che il barone non trovava abbastanza chic per i suoi gusti. Jupien, che si prendeva cura di lui come di un bambino, gli bisbigliò all'orecchio che era una persona di sua conoscenza, Madame de Saint-Hubert, e subito con uno sforzo infinito, ma con tutta l'applicazione di un malato nel mostrarsi capace di tutti i movimenti che gli sono ancora difficili, il signor di Charlieu si tolse il cappello, si inchinò e salutò Madame de Saint-Hubert con lo stesso rispetto con cui avrebbe salutato la regina di Francia. Forse, nella stessa difficoltà con cui faceva un tale saluto, egli vedeva una ragione per farlo, consapevole di colpire di più con un atto che, doloroso per un malato, diventava doppiamente meritorio da parte di chi lo compiva e lusinghiero per colei cui era rivolto. I malati, come i re, esagerano in cortesia. O forse nei movimenti del barone c'era ancora l'incoordinazione che consegue ai disturbi del midollo e del cervello, e i suoi gesti andavano oltre la sua intenzione. Io vi scorsi piuttosto una sorta di dolcezza quasi fisica, di distacco dalle realtà della vita che tanto colpisce in coloro che la morte ha già accolto nella sua ombra. L'affiorare dei giacimenti d'argento della capigliatura rivelava un cambiamento meno profondo di quell'inconsapevole umiltà mondana che invertiva ogni rapporto sociale, che umiliava davanti a Madame de Saint-Hubert, che avrebbe umiliato davanti all'ultima delle americane, finalmente in grado d'usufruire della cortesia per lei sinora inaccessibile del barone, quello che sembrava il più fiero degli snobismi. Perché il barone viveva tuttora, pensava tuttora, la sua intelligenza non era compromessa. E più di un coro di Sofocle sull'orgoglio umiliato di Edipo, più della morte stessa e di qualsiasi orazione funebre sulla morte, il saluto premuroso e umile del barone a Madame de Saint-Hubert proclamava quanto vi sia di fragile e di perituro nell'amore per le grandezze della terra e in tutto l'orgoglio umano. Il signor di Charlieu, che prima non si sarebbe degnato di pranzare con Madame de Saint-Hubert, adesso la salutava inchinandosi profondamente. Salutava forse per ignoranza del rango della persona che salutava, giacché gli articoli del codice sociale possono essere cancellati da un attacco come ogni altra parte della memoria. Forse per un'incoordinazione dei movimenti che trasponeva sul piano dell'umiltà apparente l'incertezza, altrimenti altezzosa, circa l'identità della signora che passava. La salutò con la cortesia dei bambini, che vanno timidamente, su sollecitazione della madre, a dire buongiorno ai grandi. E un bambino, senza la fierezza dei bambini, era diventato il barone. Ricevere l'omaggio del signor di Charlieu era per lei il massimo dello snobismo, come per il barone era stato il massimo dello snobismo rifiutarglielo. Ora, quel che di inaccessibile e prezioso era riuscito a far passare agli occhi di Madame de Saint-Hubert come essenziale alla sua persona, il signor di Charlieu lo annientò in un sol colpo con la diligente timidezza, con lo zelo timoroso con cui si tolse il cappello da cui, finché rimase deferentemente a capo scoperto, L'argento della sua capigliatura fluì con un'eloquenza degna di Bossuet. Quando Jupien l'ebbe aiutato a scendere e io lo salutai, il barone mi parlò molto affrettatamente, con una voce così impercettibile che non riuscii a capire cosa dicesse, il che gli strappò, quando glielo feci ripetere per la terza volta, un gesto di impazienza che mi stupì, data l'impassibilità mostrata fin lì dal suo viso e dovuta, probabilmente, a un residuo di paralisi. Ma quando mi abituai finalmente al pianissimo di quelle parole sussurrate, mi resi conto che l'intelligenza del malato era rimasta assolutamente intatta. D'altronde, di Charlus ce n'erano due, senza contare gli altri. Fra i due, l'intellettuale passava il suo tempo a dolersi d'andare verso l'afasia, di pronunciare di continuo una parola, una lettera, al posto di un'altra. Ma non appena gli succedeva realmente di farlo, l'altro Charlus, quello inconscio, che voleva essere invidiato quanto l'altro commiserato e ricorreva a civetterie che l'altro disdegnava, interrompeva immediatamente, come un direttore d'orchestra con degli orchestrali che pasticciano la frase cominciata, e con un'ingegnosità infinita riattaccava quanto veniva dopo alla parola detta, in realtà al posto di un'altra, facendola sembrare scelta a bella posta. Intatta era pure la sua memoria, da cui, con una civetteria non disgiunta dalla fatica di un'applicazione fra le più ardue, faceva uscire questo o quel vecchio ricordo, poco importante, che per il fatto di riguardarmi mi avrebbe dimostrato come egli avesse conservato o ritrovato tutta la sua lucidità mentale, senza muovere né la testa né gli occhi, né variare di una sola inflessione il suo eloquio. Mi disse, per esempio, «Guardate quel manifesto. È uguale a quello davanti al quale ero fermo la prima volta che vi ho visto ad Avranches. No, mi sbaglio, a Balbec». E, in effetti, era una pubblicità dello stesso prodotto. All'inizio avevo capito a malapena cosa dicesse, così come si comincia col non vedere un bel niente in una camera con le tende tutte chiuse, ma come occhi nella penombra. Presto le mie orecchie si abituarono a quel pianissimo. Credo anche che via via che il signor di Charlus parlava, esso si fosse gradualmente rafforzato, vuoi che la debolezza della voce derivasse in parte da un'apprensione nervosa che si dissipava quando, distratto da un terzo, il barone non ci pensava più, vuoi che, al contrario, la debolezza corrispondesse al suo vero stato e la forza momentanea con cui parlava durante la conversazione fosse provocata da un'eccitazione fittizia, passeggera e alquanto funesta, che faceva dire agli estranei: «Va già meglio, bisogna che non ci pensi al suo male», ma aumentava invece il male stesso, che non tardava a riprendere. Comunque fosse, in quel momento il barone, anche tenendo conto della mia assuefazione, lanciava le parole con più forza, come la marea le sue piccole onde ritorte nelle giornate di brutto tempo. E quanto restava del suo recente attacco faceva sentire sullo sfondo delle sue parole come un rotolio di ciottoli. Continuava, peraltro, a parlarmi del passato, probabilmente per farmi vedere che non aveva perso la memoria. Lo evocava in modo già funebre, ma senza tristezza. Non finiva mai di enumerare tutte le persone della sua famiglia o del suo ambiente che erano morte. Meno triste, sembrava, che non ci fossero più, che soddisfatto d'esser loro sopravvissuto. Ricordando la loro scomparsa, era come se prendesse meglio coscienza del proprio ritorno alla salute. Con quasi trionfale durezza, in un tono uniforme, leggermente balbettante, e dalle sorde risonanze sepolcrali, ripeteva: «Annibal de Beauté, morto. Antoine de Mouchy, morto. Charles Swann, morto. Adalbert de Montmorency, morto. Boson de Talleyrand, morto. Sostène de Doudoville, morto». E ogni volta quella parola, morto, sembrava cadere sui defunti come una palata di terra più pesante, gettata da un becchino che volesse ribadirli più profondamente nella tomba. La duchessa di Le Tourville, che non andava alla matinée della principessa di Guermantes perché era uscita da poco da una lunga malattia, passò in quel momento a piedi accanto a noi e, vedendo il barone, di cui ignorava il recente attacco, si fermò per salutarlo. Ma la malattia di cui aveva appena sofferto non la rendeva più comprensiva verso la malattia degli altri, anzi faceva sì che la sopportasse con più impazienza, con un malumore nervoso nel quale c'era forse parecchia pietà. Accorgendosi che il barone pronunciava con difficoltà e in modo imperfetto certe parole, che muoveva il braccio con fatica, girò gli occhi attorno su Jupien e su di me, come per chiederci la spiegazione d'un fenomeno così sconveniente. Poiché non gliene fornimmo alcuna, fu allo stesso signor di Charlus che rivolse un lungo sguardo, pieno di tristezza ma anche di rimproveri. Sembrava che gli facesse una colpa d'esser lì fuori con lei in un atteggiamento non meno inusuale che se fosse uscito senza cravatta o senza scarpe. A un nuovo errore di pronuncia commesso dal barone, il dolore e l'indignazione della duchessa aumentarono insieme e, rivolta al barone, disse «Palamet?» col tono interrogativo ed esasperato di chi, troppo nervoso, non sopporta d'aspettare nemmeno un minuto, e se lo fate entrare subito, scusandovi di non aver ancora finito di vestirvi, vi dice amaramente, non per scusarvi, ma per accusarvi. Ma allora vi disturbo, come se a essere in colpa fosse il disturbato. Alla fine la duchessa ci lasciò, sempre più sconfortata, dicendo al barone, fareste meglio a tornare a casa. Lui chiese di sedersi su una poltrona per riposarsi. Jupien e io intanto avremmo fatto quattro passi e cavò faticosamente di tasca un libro che mi parve un libro di preghiere. Non mi dispiaceva poter apprendere da Jupien qualche particolare sulle condizioni di salute del barone. «Sono davvero lieto di parlare con voi, signore», mi disse Jupien, «ma non dobbiamo andare più in là de Rond-Point». «Grazie a Dio, il barone adesso sta bene, ma non oso lasciarlo a lungo da solo. È sempre lo stesso, ha troppo buon cuore, darebbe agli altri tutto quello che ha, e non è tutto. È rimasto cacciatore come un giovanotto e sono costretto a tenere gli occhi aperti. Tanto più che ha recuperato i suoi», risposi. «Mi aveva fatto molta tristezza sentire che aveva perso la vista. La sua paralisi, in effetti, aveva prodotto anche questo. Non ci vedeva assolutamente più. Pensate che durante la cura, che del resto gli ha fatto tanto bene, è rimasto parecchi mesi senza vedere più d'un cieco dalla nascita. Questo almeno avrà reso inutile tutta una parte della vostra sorveglianza. Nemmeno per sogno. Appena arrivava in un albergo mi chiedeva come fosse questa o quella persona di servizio. Gli assicuravo che c'erano solo degli orrori. Ma lui sentiva che la cosa non poteva essere universale, che qualche volta dovevo mentire. Vi rendete conto? Che birichino. E poi aveva una specie di fiuto, forse dalla voce, chissà. Allora trovava il modo di spedirmi d'urgenza a fare qualche commissione. Un giorno, mi scuserete se vi dico una cosa del genere, ma una volta, per caso, siete venuto nel tempio dell'impudicizia. Non ho niente da nascondervi. Jupien provava sempre d'altronde una poco simpatica soddisfazione a mettere in mostra i segreti di cui era depositario. Tornavo da una di quelle commissioni cosiddette urgenti e tanto più in fretta in quanto immaginavo che fosse stata escogitata a bella posta quando, nell'avvicinarmi alla camera del barone, sentii una voce che diceva «Cosa?» «Ma come?» replicò il barone. «Allora era la prima volta!» Entrai senza bussare E quale non fu il mio spavento! Il barone, ingannato dalla voce che era in effetti più forte di quanto non sia di solito a quell'età, e il barone a quel tempo era completamente cieco, stava... Lui, che una volta preferiva le persone mature, con un ragazzo di neanche 10 anni.